po', senza che nulla resti, onde il mio nome vada superbo alla posterità. Questo non sarà. Io dico all'arna vizia grave, e togli via in te a sperare, che l'Europa è la mia patria, almeno sappiano che basta bene for, o che sapeperi, o che salvo me, o valor, che torni al me. Dico allora, di me pietà, oh pietà, pietà. Cristiano, da parte!